Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? Ciao a tutti e a tutti, bentornati e bentornate a questa puntata di Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che introduce a sua volta la settimana in cui si celebrerà l'8 marzo, martedì prossimo. E per fare al meglio questa sottolineatura, noi risaliamo al secondo incontro della rassegna dedicata a graphic novel, fan fiction e feminist art. Diverse le relatrici, tra cui noi ascoltiamo l'intervento significativo sul corpo, sull'identità e sui sogni di Valentina Grande, che è una, tra l'altro, redattrice della nostra emittente Radio Fujiko nella trasmissione 42 La Risposta, che poi viene replicata anche su Radio Onda d'Urto. Valentina Grande, ricordiamo, è docente della scuola pubblica, autrice e conduttrice di radio per l'appunto. Nel 2017 ha scritto il soggetto e la sceneggiatura del Mio Salinger per Becco Giallo e nel 2018 Raymond Carver, una storia sempre per Becco Giallo Editore. Nel 2020 ha pubblicato Feminist Art, le donne che ha rivoluzionato l'arte, per Centauria Libri. Il mio lavoro, nel momento in cui ho incominciato a scrivere sceneggiature, è sempre stato comunque quello di orientare alla rappresentazione di tutte le corporeità. Una delle frasi che mi aveva colpita moltissimo e che è diventato un po' il mio mantra quando lavoro è una citazione di Marian Wright Edelman, una attivista per i diritti dell'infanzia, la quale diceva: non puoi essere quello che non vedi. È una affermazione molto importante. Se noi non vediamo rappresentate delle identità, non riusciamo realmente ad esistere. Quindi questo ci fa capire quanto sia importante la rappresentazione attraverso la letteratura, attraverso i fumetti, così come naturalmente attraverso il cinema. Tutto ciò che noi riusciamo a vivere è qualcosa che ti intesse in queste storie. Quando scrivo, obiettivo principale è quello di riuscire a dare spazio a tutti i corpi e a tutte le possibili identità, soprattutto se sono delle identità non conformi. Per rendere più semplice il concetto, quando io ero un adolescente, le storie che leggevo erano sempre storie di ragazzi che vivevano grandi avventure, di maschi. E quando ho iniziato io a scrivere le mie prime storie, i personaggi principali erano sempre maschi. Erano ragazzi, uomini che vivevano determinate esperienze. Non ho mai pensato che potesse esserci il contrario. Diciamo che l'incanto si è rotto nel momento in cui, poi da adolescente, ho iniziato a leggere altri romanzi in cui sono comparse finalmente delle eroine. Molte volte si semplifica rappresentazione, autorappresentazione. Siamo proprio certi e certe che quando creiamo una autorappresentazione stiamo rappresentando noi stessi e noi stesse? Oppure quando stiamo rappresentando noi stesse ci atteniamo ad un canone, ci atteniamo appunto a un'idea che ci è arrivata dall'esterno? E quindi nel momento in cui scrivo io mi sono resa conto che, per esempio, è fondamentale che io scriva al disegnatore o alla disegnatrice di inserire dei corpi differenti, di inserire non solamente donne che siano magre, che siano, diciamo, di una corporatura ricercata, che è quello che ci arriva dall'esterno, ma corpi differenti, colori differenti. Nel momento in cui scrivo c'è una stanza piena di persone, spesso mi capita di vedere poi una tavola con uomini e donne bianchi e bianche di una corporeità che è una corporeità da appunto pubblicità. Non esiste la persona a sovrappeso o la persona che invece è molto magra. Esiste, diciamo, quella visione che è una visione stereotipata. E quindi i personaggi che scelgo di rappresentare sono quei personaggi che spesso, soprattutto tramite l'ultimo lavoro Feminist Art, non hanno trovato spazio e che quando trovavano spazio, era uno spazio particolare. Pensiamo ad un esempio, l'esempio di Via col vento, quel celebre romanzo che poi ha avuto una appunto trasposizione cinematografica molto famosa. Noi abbiamo un personaggio che è stato fortemente criticato perché c'era il personaggio appunto di Mammy. Mammy era, rappresentava la donna, ora dovremmo dire afrodiscendente, donna nera, che ha un ruolo all'interno della storia. E guardate che questo ruolo è un ruolo che continuano ad avere tutte le categorie che non hanno una vera rappresentazione. Quale ruolo? Nel momento in cui li inseriamo e le inseriamo nelle storie, non diamo loro davvero uno spazio di narrazione. Sono dei personaggi di contorno e molto spesso, come accade per esempio con Mammy, sono dei personaggi che aiutano il personaggio principale, che spesso è bianco, che spesso è un uomo, e che viene appunto confortato da questa presenza. Quindi non hanno una loro identità, non hanno un loro spazio, non stanno intessendo una storia con tutte le complessità. Questo si ha soprattutto quando la scrittura è una scrittura piatta, che non vede la complessità nelle persone e non vede soprattutto la complessità nei personaggi. Cosa vi posso presentare oggi? Vi presenterei invece dei graphic novel in cui la scrittura è una scrittura invece molto affinata. E le prime immagini sono di Mariko Tamaki, sceneggiatrice, e di sua cugina Gillian Tamaki, che hanno realizzato con un romanzo grafico che ha vinto moltissimi premi, tra i quali l'Eisner Award, una storia, un passaggio importante nella vita di una ragazzina, e il momento in cui da preadolescente incomincia a sentire delle pulsioni e abbandona così la propria infanzia. Ma cos'è che colpisce in questa storia? Beh, innanzitutto i corpi che vengono rappresentati. Noi abbiamo questa prima tavola che è una doppia splash, vediamo già chi sono le protagoniste. L'amica, che appunto è una ragazzina piena di vita e di gioia, si presenta con una corporeità tipica dell'adolescenza, un corpo che sta appunto sviluppando, ci mostra proprio seno, ma un seno che non si è ancora sviluppato, e vive questo suo corpo con una totale leggerezza, cosa che invece in altre narrazioni può risultare invece molto più difficoltoso. Questa è una storia bellissima che consiglio davvero di leggere. Poi abbiamo altre storie di Rainbow Rowell. Qual è la particolarità di questo romanzo che grafico che ha vinto anche l'Eisner Award? La nostra protagonista è una afrodiscendente, ha una corporeità non conforme e durante la storia noi capiamo che da una parte è innamorata del protagonista ma ha anche avuto una storia con una ragazza che è all'interno del campo. E tutta questa narrazione avviene con una grandissima leggerezza, con una grandissima capacità di saper esprimere i desideri e le passioni senza nessun tipo di giudizio, senza nessun tipo di morale, cosa che invece in altri romanzi grafici o in altre storie diventa molto invece preponderante. La linea d'ombra, la nebbia che io vedo a me davanti, per la prima volta nella vita mia mi trovo a saper quello che lascio e non saper immaginar quello che trovo. Mi offrono un incarico di responsabilità, portare questa nave verso una rotta che nessuno sa. È la mia età mezz'aria, in questa condizione di stabilità precaria, ipnotizzato dalle pale di un ventilatore sul soffitto, mi giro e mi rigiro sul mio letto, mi muovo col passo pesante in questa stanza umida di un porto che non ricordo il nome. Il fondo del caffè confonde il dove e il come, e per la prima volta so cos'è la nostalgia, la commozione. Nel mio bagaglio panni sporchi di navigazione, per ogni strappo un porto, per ogni porto in testa una canzone. È dolce stare in mare quando sono gli altri a far la direzione, senza preoccupazione, soltanto fare ciò che c'è da fare, e cullati dall'onda notturna sognare la mamma, il mare. Mi offrono un incarico di responsabilità, mi hanno detto che una nave c'ha bisogno di un comandante, mi hanno detto che la paga è interessante e il carico è segreto ed importante. Il pensiero della responsabilità si è fatto grosso, è come dover saltare al di là di un fosso che mi divide dai tempi spensierati di un passato che è passato, saltare verso il tempo indefinito dell'essere adulto. Di fronte a me la nebbia mi nasconde la risposta alla mia paura. Cosa sarò? Dove mi condurrà la mia natura? La faccia di mio padre prende forma sullo specchio, lui giovane, io vecchio, le sue parole che rimbombano dentro al mio orecchio. La vita non è facile, ci vuole sacrificio, un giorno te ne accorgerai e mi dirai se ho ragione, arriva un giorno in cui bisogna prendere una decisione. E adesso è questo giorno di monsone, col vento che non ha una direzione, guardando il cielo un senso di oppressione. Ma è la mia età, dove si guarda come si era, non si sa dove si va, cosa si sarà. Che responsabilità si hanno nei confronti degli esseri umani che ti vivono accanto. E attraverso questo vetro vedo il mondo come una scacchiera, dove ogni mossa che io faccio può cambiare la partita intera. Ed ho paura di essere mangiato, ed ho paura pure di mangiare. La tavola è tratta da Il principe e la sarta. Ed è una delle storie più anticonformiste per ragazzi pubblicate negli ultimi anni ed è stato anche oggetto di polemiche. Perché? Perché la storia che viene qui raccontata è la storia di un principe che assume una sarta perché quest'ultima realizzi dei vestiti per lui. Infatti il nostro principe è un crossdresser, ossia il suo grande segreto di cui è spaventato e non vorrebbe appunto comunicarlo a nessuno e che ama indossare vestiti da donne. Quindi un abbigliamento che naturalmente è ambientato in un tempo non a noi vicino, però naturalmente potete capire le reazioni delle persone all'interno della storia quando scopriranno questa sua importante scelta. La sarta, la protagonista, invece durante tutta la storia ha la possibilità di sperimentare le proprie capacità, ma anche, sveli un po' il finale, ma anche di innamorarsi di questo principe, perché proprio attraverso la comprensione ciascuno e ciascuna riuscirà a gettare un ponte al di là del pregiudizio, al di là dell'etichetta che invece dall'esterno diventa sempre più forte verso questi personaggi. Altro romanzo grafico è Oro con Eva Rossetti ed è una tavola su Feminist Art. Perché ho scelto questa tavola di questo nostro lavoro? Perché la protagonista, Faith Ringgold, che è una artista che inizialmente dipingeva solo ed esclusivamente tavole impressioniste ambientate in Francia. E ha un momento, un'epifania, un cambiamento quando si confronta con una curatrice di una mostra che le fa notare che invece no, lei deve ricordarsi da dove viene, lei deve sapere chi è. E quello è il momento della rottura. Lei viene da Harlem, lei è una afrodiscendente, si riappropria della propria narrazione. Perché? Perché se non racconta lei la propria storia, qualcun altro lo farà e chissà come questa narrazione verrà messa in atto. E quindi cosa fa? Prende quelli che sono gli stereotipi, appunto la mamma di cui vi dicevo all'inizio, e la reinterpreta, la racconta in un altro modo. Abbiamo quindi, diciamo, delle rappresentazioni che sono rappresentazioni di rottura, queste sono quelle che vi ho presentato. Autodeterminarsi, autorappresentarsi diventa un processo molto molto faticoso e difficile, ma che offre alle persone nel momento in cui questo avviene una riappropriazione di quello che si è. Ma vi dico anche di più, io all'inizio vi ho parlato di me, ma nel libro bellissimo, almeno insomma per chi è un neofita, di Chimamanda Ngozi, il cui titolo è Dovremmo essere tutti femministi, lei ci racconta che da bambina, quando scriveva delle storie in cui le protagoniste erano bambine bianche. Un po' come accadeva a me quando scrivevo delle storie con dei protagonisti maschi. Quindi il discorso dell'autorappresentazione riguarda moltissimo ciò che noi siamo. Dobbiamo ricordarci che quando un bambino sta guardando Star Wars e sta guardando, non so, il protagonista, Han Solo, per esempio, il grande eroe, probabilmente non ha tutte quelle caratteristiche che lo renderanno un eroe nella propria vita, ma può sognare di esserlo. Di fronte a sé ha molteplici possibilità di concretizzare quello che sarà il suo sogno. Ecco, io penso che tutte le persone si meritano di poter sognare delle rappresentazioni. Una ragazza come me che possa immaginare di poter vivere delle storie come protagonista di una storia, o una ragazza nigeriana che possa avere una storia scritta in cui lei è la protagonista. Perché? Perché altrimenti noi in questo modo, attraverso una mancanza di rappresentazione, togliamo anche i sogni a tutti coloro e a tutte coloro che non si vedono rappresentate. libro di oggi è Bever come Castoro, edito da 7-9. L'autrice è Serena Ballista. Serena Ballista, ci può raccontare qualcosa di più di questa donna straordinaria? Simone de Beauvoir. E lei era una lucidissima pensatrice e con il suo Donne non si nasce, lo si diventa, lei fa una feroce denuncia sostenuta da mille pagine, no? Le mille pagine del secondo testo a sostegno proprio della sua tesi. E lei vuole dire con questa frase, che appunto è una denuncia e non invece una rivendicazione come molti pensano, che non è scritto nel destino delle donne il fatto di essere subalterne, il fatto di essere discriminate, il fatto di essere fatte oggetto di violenza. Non è nel destino delle donne essere secondo sesso, è un prodotto culturale, e noi questa cultura la possiamo mettere in discussione innanzitutto potendola guardare con una lente di ingrandimento, ed è esattamente quello che fa Simone de Beauvoir. Per me era importante, attraverso un albo illustrato come Beaver, come Castoro, parlare di questo tema così complesso con le bambine, con i bambini, e mi sono servita dell'elemento della bicicletta, che è un po' il simbolo di quello che è il desiderio di Simone de Beauvoir, un desiderio negato per quantomeno durante la sua infanzia, proprio per raccontare alle piccole lettrici e piccoli lettori di come già dall'educazione che riceviamo durante l'infanzia ci siano già i presupposti per questa suddivisione rigida dei ruoli di genere, che non ci lasciano libere, ma non ci lasciano nemmeno liberi, quindi aggiungiamo pure anche il tema del maschile. E quindi mi è servito un espediente come quello della bicicletta per raccontare invece questa rincorsa verso la libertà. Ecco, che Simone de Beauvoir ha interpretato e nella sua vita personale, fin da piccolissima, e nella sua poi produzione letteraria. Ecco, nel libro dice che la madre aveva paura, cito, che io diventassi me. Ecco, cosa vuol dire quel diventare me, al di là delle aspettative di genere, dei genitori e della società? Beh, la madre di Simone de Beauvoir, Françoise, lei era una donna che era cresciuta fortemente irregimentata dentro i ruoli di genere, per cui non era una donna abituata a vivere per se stessa, mettendosi al centro, no, della propria esistenza, quindi per lei era addirittura inconcepibile pensare al proprio desiderio, ma caratterialmente era una donna però forte e che viveva in realtà male questa costrizione di genere, ma non poteva far altro che riproporla alle sue stesse figlie, quindi Simone de Beauvoir compresa, proprio perché era quello il suo sistema valoriale. Quindi la madre aveva paura che Simone diventasse se stessa, nel senso che aveva paura che Simone le sfuggisse di mano. Ecco, questo non è dovuto soltanto a a questioni legate alla questione di genere, ma è dovuto anche al fatto che appunto Françoise, la madre, viveva un po', ecco, attraverso le figlie. Quindi l'idea che loro prendessero una bicicletta, diventassero loro stesse, esplorassero, si allontanassero da lei, le facevano in qualche modo perdere questa presa, ecco, che la madre sentiva di dover avere sulle proprie figlie. Sotto questo sole bello pedalare, sì, ma c'è da sudare. Sotto questo sole rossi col fiatone, neanche da bere. Sotto questo sole bello pedalare, sì, ma c'è da sudare. Sotto questo sole rossi col fiatone. In questi mesi ci sono state molte celebrazioni, diciamo così, anche radiofoniche, penso a quelle di Radio 3 dedicate a Simone de Beauvoir, ai 60 anni della traduzione italiana del Secondo Sesso. Le chiedo, ma oggi Parigi e il mondo intero hanno ancora, hanno davvero smesso di avere paura delle bambine a 60 anni da quella pubblicazione? Allora, in realtà questa cosa che ho scritto, no, per cui faccio dire a Simone che Parigi smette di aver paura di bambine come lei, è per il fatto che Simone de Beauvoir, quando ha pubblicato il secondo sesso, è stata ferocemente oggetto di dileggio, addirittura nei caffè letterari in cui lei era abituata ad andare per scrivere, per discutere, mentre alla sua morte, ecco, la città cambia atteggiamento nei suoi riguardi. Quindi abbiamo ad esempio questa scena, no, dei camerieri addirittura che escono dai caffè letterari al passaggio della bara per le strade di Parigi, vanno fuori dai caffè letterario, si mettono sul marciapiede della strada e hanno il tovagliolo ripiegato ordinatamente sul braccio teso a 90 gradi, proprio in segno di rispetto. No, in realtà queste bambine fanno incredibilmente ancora paura, pur avendo un pezzo della società internazionale in realtà che apprezza invece quello che grandi protagoniste della storia hanno saputo dire, hanno saputo fare e hanno saputo così donare alla collettività come grande ricchezza a livello di elaborazione culturale. Certamente non avremmo il problema che abbiamo ad esempio del femminicidio, tanto per citare la forma più estrema, no, di questa manifestazione di disparità di potere che esiste tra uomini e donne. Certamente queste donne continuano a far paura, certamente continua a far paura l'autodeterminazione, altrimenti non avremmo il femminicidio come fenomeno strutturale. Prima di chiudere, lei è anche presidente di UDI a Modena. In una battuta, cosa occorre fare oggi come UDI per essere ancora dalle parte delle bambine e poi successivamente quindi anche delle donne? Noi fare quello che continuiamo a fare. Noi stiamo, a parte essere un pungolo per le istituzioni, perché questo è il nostro compito, noi siamo un'associazione che ha una vocazione nazionale, una struttura nazionale e locale, e il nostro ruolo è quello di fare da pungolo alle istituzioni, di monitorare, di far presente, di non far scordare, di ripetere, di sensibilizzare, ma diciamo che abbiamo come bussola, ecco, come riferimento il fatto che siamo fortemente consapevoli di come questo problema dell'essere ancora oggi secondo sesso subalterne, piegate a tutta una serie di logiche che ci schiacciano, che non ci assecondano, ecco, nel perseguire la nostra autodeterminazione, sia una battaglia che si pone soprattutto in termini culturali, e ci vuole del coraggio, ecco, nell'accettare che la sfida sia culturale, perché è molto più semplice ragionare in termini emergenziali, no? A Modena abbiamo avuto, sì, nel giro di poche ore ben 4 femminicidi più 2 figlicidi, ed è semplice ragionare in termini di ci sono i boom dei femminicidi, è un problema emergenziale. No, è un problema strutturale, che è un'altra cosa, perché ci mette molto più in discussione a livello culturale, e non è qualcosa che possiamo risolvere dall'oggi al domani. Serve pazienza, serve dedizione, serve convinzione e serve essere consapevoli di come la sfida si ponga in termini di prevenzione e di prevenzione culturale. La mia duplice veste, no, di essere un'attivista e di essere però una scrittrice impegnata, ecco, su questi temi, e con un grande desiderio di poter parlare con i più piccoli e le più piccole di questi temi così difficili, sta proprio in questo. E credo che gli albi illustrati, peraltro, lo consentano incredibilmente, forse più di testi complessi in un certo senso, perché proprio grazie all'iconotesto, cioè questa magia, questo connubio, no, del mix, no, tra la scrittura e le illustrazioni, creano questo artificio letterario che sostiene, no, la funzione educativa, perché innescano delle piccole folgorazioni, delle piccole grandi epifanie nel momento in cui lo vai a proporre ai più piccoli, e loro sono in grado di cogliere dettagli nelle parole, nelle illustrazioni, che di solito i grandi bypassano perché sono attenti alle cose importanti. Invece loro sono molto capaci di ragionare sul piano metaforico, molto capaci di trovare i diversi livelli di lettura, e è veramente un piacere farlo con loro e sentire veramente di fare una contronarrazione, controcultura rispetto all'immaginario sessista e al sistema patriarcale nel quale noi tutti quanti viviamo. Tell me.